24, i gialli della storia. It had to be you. It had to be you. I've wandered around. È il 1943. Casablanca vince il premio Oscar come miglior film. Intrigo romantico e odio per il Terzo Reich sono gli ingredienti principali di questo grande classico della storia del cinema. La maggior parte del cast di Casablanca è composta da degli esuli che sono in fuga da Adolf Hitler. Negli anni 20 hanno dato vita all'età dell'oro del cinema tedesco. Adesso sono degli artisti in esilio. Tra il 1933 e il 1940, più di 800 attori, registi abbandonano l'Europa travolti dal Terzo Reich per rifugiarsi a Hollywood. Non tutti troveranno il successo, ma molti di loro realizzeranno film che entreranno nella storia del cinema. Oggi a Mix 24 racconteremo il giallo di quell'esodo che ha condizionato la cinematografia mondiale. E per farlo partiamo da Berlino. Dopo la Grande Guerra la Germania crea l'UFA, una casa di produzione statale dove lavorano i più grandi talenti del cinema e che è diretta da Erich Pommer. Molti degli artisti che collaborano con lui sono di origine ebrea. Così Fritz Lang ricorda quegli anni. Agli inizi della mia carriera ero molto vicino a un uomo che forse lei conosce di nome, Erich Pommer. Quando cominciai a lavorare per lui, mi disse: Fritz, voglio darti due consigli. Se vuoi fare un film, devi imparare a muovere la macchina da presa, perché è con la macchina da presa che racconti una storia. Secondo, mai avere avventure sentimentali con un'attrice. Nel 1927 l'UFA presenta Metropolis, un colossal fantascientifico di Fritz Lang. Ambientato nel XXI secolo, Metropolis racconta un mondo controllato con precisione meccanica. Sarà uno dei film preferiti da Hitler. Metropolis fa scoprire al mondo un autentico talento cresciuto nel laboratorio dell'UFA. Berlino è la vera Mecca per il mondo della cultura di quel periodo, come racconta Lupita Könner. Berlino era una città fantastica. Io non ero mai stata all'opera. Ed è andando all'opera che ho potuto conoscere quel mondo. C'era sempre gente in giro per le strade, nei locali notturni. Era una città molto vivace e allegra. Chi voleva fare il cinema non poteva fare a meno di passare per Berlino. Lì, per gli artisti di talento, ci sono grandi opportunità. E il 1929, in un caffè di Berlino, si incontrano quattro ragazzi che decidono di fare un film insieme. Sono Billy Wilder, Robert Siodmak, che con suo fratello Kurt e Edgar Ulmer, più tardi si unirà a loro anche Fred Zimmerman. Fu allora che conobbi Billy Wilder. Era il nostro primo film, non sapevamo niente. Il regista era Robert Siodmak e anche lui non aveva mai girato un film in vita sua. Eravamo in 4 o 5 e provammo a fare un film con attori non professionisti e praticamente senza soldi. Realizzano Uomini di Domenica, la storia di 4 giovani berlinesi in un'uscita domenicale. Pommer riconosce subito il valore di quella pellicola d'avanguardia e dopo poche settimane ingaggia Billy Wilder e i fratelli Siodmak. Uomini di Domenica è un film sorprendente. La tecnica di ripresa infrange qualsiasi regola della cinematografia tradizionale. In questo senso è un film rivoluzionario. Il regista, Robert Siodmak, è un nome da tenere d'occhio. Nel giro di qualche anno l'uso espressivo di luci e ombre da parte del cinema tedesco si impone all'attenzione di tutto il mondo e successivamente sarà abbracciato dal cinema hollywoodiano per la nascita del genere noir. Intanto Pommer ha un'altra ambizione, vuole cimentarsi col sonoro e mette in cantiere L'Angelo Azzurro. Per il ruolo della protagonista sceglie una giovane attrice di 29 anni, Marlene Dietrich. Il film ottiene un enorme successo che procura a Dietrich un contratto con la Paramount. Marlene partirà per l'America il 1 aprile del 30, il giorno della prima a Berlino dell'Angelo Azzurro. Intanto però il regime nazista dilaga, come racconta Lupita Koehner e il regista Henry Costner. Di punto in bianco erano tutti diventati nazisti, tutti. C'erano nazisti dappertutto, spuntavano come funghi. Una mattina ci siamo svegliati e c'erano bandiere con la svastica a tutte le finestre, meno che alla nostra. Non ci eravamo resi conto della gravità del fenomeno. Una sera, invece del taxi, decidemmo di prendere la metropolitana. Lì vedemmo un ragazzo che veniva pestato da una decina di nazisti in uniforme. La madre del ragazzo, una signora anziana, era lì che piangeva e l'implorava di smettere. Noi restammo paralizzati. Fu una serata terribile. Nel ristorante dove ci incontravamo dopo le riprese c'era sempre un tavolo riservato per noi. Mi avvicinai al tavolo, ma gli altri commensali mi chiesero di non sedermi con loro. Non volevano farsi vedere in compagnia di un ebreo. Non riuscivo a crederci. I nazisti hanno capito l'importanza della propaganda, il cinema diventa uno strumento fondamentale e controllarlo è una necessità. Lo sceneggiatore Kurt Siotmark racconta un terribile incontro col ministro della propaganda Goebbels. Mi recai al Kaiserhof Hotel di Berlino su invito del dottor Goebbels. C'era tutto il cinema tedesco al gran completo. Fritz Lang, John Mary, tanti sceneggiatori e produttori, e anche Eric Pommer. Goebbels annunciò che avrebbe assunto il controllo dell'industria cinematografica. Disse: la realtà è diversa da come può percepirla un regista ebreo. Poi citò i suoi film preferiti. 12 titoli, 11 dei quali girati da ebrei. Il giorno dopo il consiglio d'amministrazione dell'UFA si riunisce, individuati i dipendenti ebrei che occupano incarichi strategici, vengono licenziati. Nel giro di un'ora l'UFA perde molti dei suoi talenti migliori, compreso il produttore Eric Pommer. Nelle settimane e nei mesi successivi gli uomini e le donne che hanno dato vita all'età dell'oro del cinema tedesco fuggono in esilio. Dopo un primo soggiorno a Parigi molti si trasferiscono a Londra e Vienna. Solo pochi fortunati ricevono offerte da Hollywood. Ma presto gli Stati Uniti diventano l'unica meta possibile, anche senza nessuna certezza relativa al lavoro. Ma anche per le star del cinema tedesco la vita a Hollywood non è facile. Devono confrontarsi con regole e metodi di lavoro quasi inaccettabili, come nel caso di Fritz Lang, che è un rigoroso perfezionista. A Hollywood il copione è considerato semplicemente una traccia, un riferimento. Secondo me invece è qualcosa di più. Il regista, l'attore e l'operatore devono essere servi fedeli del copione. Io preparo tutte le mie istruzioni a tavolino. Detesto fare cambiamenti quando sono sul set. Di solito non cambio nulla. Solo dopo 5 anni riuscirà ad adattarsi al modo di lavorare e alle gerarchie che governano il cinema hollywoodiano. La verità è che eravamo abituati a lavorare in un modo completamente diverso. Ci siamo dovuti adattare a una nuova mentalità, a una nuova cultura. Non si diventa qualcuno senza lottare. Io ho sempre dovuto lottare per far valere quello in cui credevo. Outside the barracks, by the colonnades, I'll always stand. Mentre Marlene Dietrich intanto sta per diventare cittadina americana, ma poiché sua madre e sua sorella sono rimaste in Germania, l'attrice aiuta con molta discrezione i profughi che arrivano in America, paga loro il viaggio, li sostiene economicamente, spesso gli procura un lavoro. In Europa le truppe di Hitler invadono o annettono nuovi territori. Sempre più numerosi sono i grandi talenti dello schermo costretti a riparare a Hollywood. Sono gli attori Eddie Lamar, Paul Ehrlich, Félix Bressart, i compositori Ernest Gold, Hans Salter, i direttori della fotografia Rudy Maté e Franz Planner. Un vero e proprio esodo. Va detto che gli americani erano abbastanza indifferenti alla tragedia rappresentata dall'ascesa al potere di Hitler. Uno dei motivi per cui gli esuli stavano sempre insieme era appunto la possibilità di parlare di chi se l'era cavata, di chi stava per emigrare, di chi aveva bisogno di aiuto e di quello che succedeva in patria. Il compositore viennese Erich Wolfgang Korngold si sposta di frequente tra l'Europa e l'America. A Vienna è un acclamato autore di opere liriche e lavori orchestrali. A Hollywood invece si dedica alla musica per il cinema. Nell'autunno del 38 la Warner lo invita a Hollywood per scrivere la colonna sonora di La leggenda di Robin Hood. Ma dopo aver visionato la pellicola il musicista rifiuta l'incarico. Se la Warner non ha saputo convincere Korngold, i nazisti riescono a farlo in breve tempo. Mentre il musicista sta preparando le valigie, Hitler annette l'Austria al Reich. I nazisti provvedono subito a confiscare la casa di Korngold, mentre mettono al bando la sua musica. Il suo librettista si getta dalla finestra e il pediatra dei suoi bambini si toglie la vita con i sonniferi. Dice Luzi, la moglie di Korngold. Ci consideravamo viennesi. Hitler ci ha fatto diventare ebrei. Gli artisti che sono fuggiti dalla Germania nazista, dai paesi occupati dalle truppe di Hitler, si organizzano per aiutare i nuovi arrivati con denaro e lavoro, come raccontano Billy Wilder e Lupita Koenig. Ernst Lubitsch e un agente che si chiamava Paul Connor crearono una nuova iniziativa, il Fondo per il Cinema Europeo. In pratica, chiunque fosse sotto contratto versava ogni settimana una determinata percentuale dei guadagni al fondo per dare una mano a chi non lavorava. Fu istituito un fondo per il cinema europeo. Tutti gli europei che riuscivano a lavorare devolvevano parte dei soldi a favore di quel fondo. Lubitsch era il nome di prestigio. Fungeva da richiamo, ma il grosso del lavoro lo svolgeva Paul Connor, che faceva il giro degli studios implorando che facessero almeno un contratto di 6 mesi a chi non riusciva a lavorare. Spesso la comunità di lingua tedesca introduce gli esuli appena arrivati nella Hollywood che conta. Billy Wilder conosce molti sceneggiatori e qualche produttore. Il suo inglese migliora e riesce sempre meglio a comunicare il suo geniale umorismo. Dopo 2 anni ottiene il primo contratto per un film del berlinese di maggior successo a Hollywood, il regista Ernest Lubitsch. Sgombriamo subito il campo da ogni equivoco. Lubitsch era in primo luogo il migliore sceneggiatore che fosse mai esistito. Non volle mai prendersi questo merito. Stava seduto al tavolino con noi anche 4 ore di fila, suggerendoci nuovi spunti o indicandoci la direzione verso cui procedere. E dopo un suo intervento, una scena era 100 volte meglio di come l'avevamo pensata. Quell'uomo con un accento tedesco molto più marcato del mio era uno specialista dei dialoghi e le sceneggiature si reggevano su quello. Dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor, Hollywood cavalca l'onda dello sforzo bellico. Dal 1941 in poi i film antinazisti riscuotono un buon successo al botteghino. Durante la guerra contro l'asse, gli studios produrranno 160 pellicole di propaganda e più di un terzo vedranno a vario titolo la partecipazione di artisti fuggiti dall'Europa. Il 25 maggio del 42 a Hollywood ha inizio la produzione di un film antinazista che diventerà la storia d'amore più famosa della storia del cinema. Molti degli attori secondari e non sono fuggiti da Hitler, tra loro Peter Lorre, Conrad Veidt e Paul Andrade. Il film è Casablanca. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just. Per molti le riprese durano meno di una settimana. Alla fine attori e tecnici verseranno l'1% dei guadagni a favore del Fondo Europeo per il Cinema. E ancora Billy Wilder a ricordarlo. Tutta quella gente veniva aiutata grazie alla solidarietà e alla comprensione dell'industria cinematografica americana, che assicurava loro una paga settimanale che, per quanto fosse misera, ti aiutava comunque a stare a galla. Alcuni di noi ce la facevano, altri si perdevano per strada. Nel 1945 moltissimi tornarono in Europa. Per gli sceneggiatori era più dura di tutti. Io scrivevo sceneggiature e continuo a farlo ancora oggi, ma all'epoca facevo solo quello. Dico solo, ma secondo me la sceneggiatura è la cosa più importante nel cinema. Lo strumento dello sceneggiatore è il linguaggio, e se non sai scrivere in inglese, beh, io ho sudato un anno e mezzo o due per imparare l'inglese abbastanza bene da poter scrivere qualcosa. Per gli esuli un'altra difficoltà è quella legata alla conoscenza dell'inglese, difficoltà con cui si scontrano Harry Koster e Fritz Lang. We joined the Navy to see the world. Conobbi un'attrice del cinema che disse che mi avrebbe insegnato l'inglese. Mi chiese subito se conoscevo la canzone Follow the Fleet. Se vuoi imparare una lingua, diceva, devi imparare a cantare canzoni che hanno tante parole. E aveva ragione. But we didn't do, and we didn't die. We were much too busy looking at the ocean and the sky, and what did we see? We saw the sea. Quando arrivai in America, capii che dovevo imparare la lingua al più presto. Non volli più parlare tedesco. Guardavo un mucchio di film, leggevo i giornali e soprattutto le strisce a fumetti, una cosa che non esisteva in Europa. Da quelle strisce imparavo non solo la lingua, ma anche tante cose sulla cultura. Ma il contributo che questi artisti portarono al cinema americano fu straordinario. E grazie a loro, al modo in cui usavano la macchina da presa, le luci, le musiche, che è nato il genere noir. Nel maggio del 45 Billy Wilder ritorna a Berlino al seguito delle truppe americane. Quando riparte ha in mente un film, Scandalo internazionale, con Marlene Dietrich come protagonista. Guardate me, ad esempio, e pensate che tutto ciò che avevo mi è sparito e sprofondato attorno. La patria, la fede, i principi. Eppure ho tirato avanti. Mesi e mesi ho passato nell'orrore dei rifugi antiaerei ed ho tirato avanti. Sapete che cosa voleva dire essere una donna quando arrivarono qui i russi? Ho sempre tirato avanti ed era un inferno. E poi ho trovato un uomo e attraverso lui un tetto e cibo e lavoro e sopravvivere. Mi centro io in tutto questo. Centrate, perché volete lo stesso uomo. Venite. Non ve l'aspettavate, vero? Anche il drammaturgo Bertolt Brecht è tornato a Berlino. Nel 50 scrive una poesia per il suo vecchio amico Peter Lorre. Ascolta, noi ti richiamiamo. Scacciato. Ora devi fare ritorno dal paese dove un tempo scorrevano latte e miele. Tu sei stato scacciato, richiamato. Ora sei nel paese che è distrutto e nient'altro. Abbiamo da offrirti, se non il fatto che c'è bisogno di te. Povero o ricco, in salute o malato, dimentica ogni cosa e vieni. Negli anni 50 gli europei fuggiti da Hitler godono di un successo professionale, di un riconoscimento sociale impensabili quando sono arrivati per la prima volta a Hollywood. Nel 51 Harvey, diretto da Henry Costner, ottiene due candidature agli Oscar. Beh, comunque, come dicevo, stavo passeggiando quando sentii una voce dire: buonasera, signor Dowd. Io allora mi rivoltai e ti vidi questo grande coniglio bianco appoggiato ad un lampione. Non ci trovai nulla di strano, perché quando uno ha vissuto in una città quanto ho vissuto io in questa, si fa l'abitudine al fatto che tutti conoscano il tuo nome. La comunità degli esuli vanta oltre 150 nomination con 20 premi all'attivo. Il cinema americano ha assorbito completamente gli artisti europei e li gratifica quando può. Il montatore Rudolf Fehr e il regista Billy Wilder raccontano le loro esperienze. È un'esperienza magnifica lavorare in un bel film. Dopo l'onore dei Prizzi nel 1985, il presidente dell'Academy viene da me e mi fa: non ha ancora visto le nomination? No. Dia un'occhiata alla sezione montaggio. C'era il mio nome e quello di mia figlia. La sorpresa fu tale che rimasi senza fiato. Per un bel po' non riuscii a spiccicare parola. Mi piacciono i film che riescono a catturare il pubblico. Ho sempre fatto film che mi sarebbe piaciuto vedere al cinema. E se avevo fortuna, il mio gusto coincideva con quello del pubblico. Nella sua carriera Billy Wilder ottiene 23 candidature agli Oscar e ne vince 6. La sua è la storia emblematica di un esule che a 30 anni impara come funziona il sistema degli studios hollywoodiani e, giunto alla maturità, ne diventa uno dei pilastri, e non è l'unico. I professionisti del cinema formano uno dei gruppi più numerosi tra quelli costretti all'esilio dopo il 1933. Sono quasi 800 persone, la maggior parte diventano cittadini americani. Molti sarebbero emigrati comunque, anche senza il nazismo, ma di certo un esodo di queste proporzioni non si sarebbe verificato senza Hitler. Gli esuli si sono integrati nella cultura americana, portando un contributo indiscutibile al cinema di Hollywood, tanto che i loro film sono diventati dei classici del grande schermo. Non puoi dimenticare il posto dove sei nato, i luoghi della tua infanzia. E con il passare degli anni questo sentimento si fa ancora più forte. Poi però arriva un momento in cui tutto cambia. Pensi al passato e ritrovi i ricordi, l'amore per la tua terra, ma scopri anche l'amore per la tua seconda patria. E ti accorgi di essere molto attaccata al paese dove vivi. Perché qui è cominciata un'altra vita.